Sura dell'Altissimo, capitolo 87 del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 19 ayat e discesa dopo la Sura 81 al Takwir. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e clementissimo, proclama la gloria del nome del tuo Signore l'Altissimo, il quale creò e diede forma, il quale quantificò e diede scopo alla sua creazione, il quale dal terreno fa venir fuori l'erba verdeggiante e morbida del pascolo e poi la fa diventare, inaridendola, gialla e secca. Ti insegneremo noi a recitare il Corano e non dimenticherai di esso se non ciò che Allah vuole abrogare. In verità, Egli conosce sia ciò che viene espresso, sia ciò che rimane nascosto. Noi ti agevoleremo facendoti adottare la soluzione più facile in ogni situazione. Perciò ricorda agli uomini il messaggio, se il ricordare giova, terrà a mente chi teme, mentre invece se ne terrà lontano il disgraziato che sarà arrostito nel fuoco immenso e in esso non sarà né morto né vivo. Avrà successo colui che si purifica, ricorda il nome del suo Signore e compie il rito dell'adorazione. Però voi uomini preferite la vita terrena, mentre la vita futura è migliore ed eterna. In verità, questo per certo è nelle pagine dei libri precedenti, le pagine del libro di Ibrahim e del libro di Mosè.